Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, caro Oscar. Venerabile Dalai Lama. Eccomi qua. La nostra ascoltatrice. Vada in pace. Esatto. E magari si potesse davvero, tra l'altro auguri come sempre, oggi santi dai nomi più singolari. C'è un grande dottore della Chiesa, Sant'Ilario da Poté, ma poi c'è anche Sant'Agrizio, Sant'Ermilio, San Stratonico, San Gumesindio. Ecco, chi avesse nomi di questo tipo? Dai, un paio li ha inventati. No, assolutamente. Li ha inventati. Li hai tirati fuori perché sono questi martiri dei primi secoli, no? Mentre la Chiesa si espandeva. Ci si voleva male la nei Chiesa primi era come a chiamare un figlio Gumesindio. La Chiesa, capisci, faceva molto professione di convertiva. È come Renzi che adesso si porta in Piemonte il presidente, capisci, il presidente berlusconiano del Piemonte, Ghigo, che rilascia interviste al Fatto, cioè dice si va tutti con Fassino. La Chiesa è nata così, la stessa cosa. Renzi sta diventando come la Chiesa nei primi secoli. Con Ghigo. C'è Oscar che è in solluchero da qualche minuto. Mamma perché ha un mia. Mito, il suo mito. No, è solluchero da ieri. Il suo mito è Murdoch, che ha 84 anol. Cosa fa? Convola a nozze 84 anni con un altro mito di un universo maschile. Cioè, Jerry Hall, adesso non vorrei dire, una donna meravigliosa, ha 84 anni, pochissimi mesi di fidanzamento e quarte nozze. Anche pochissimi mesi di fidanzamento perché è lunga vita Murdoch. Ma Murdoch magari dura altri 30 anni, che ne vuoi sapere, Jerry? Allora capisci, uno ti dà l'idea a tutti i maschi che alla mia età tra 30 anni mi sposerò, l'equivalente di Jerry. Pensa che meraviglioso segnale, caro Alessandro. Quale sarebbe l'equivalente di Jerry? Non so, tra 30 anni, non credo, guarda, no, con tutto il rispetto, nel mio universo di simbolico Jerry Hall sa alcuni anni parsec più in su di quel nome che hai citato tu, la signora Santanchè. Va bene. Allora, quali altre notizie hanno attirato? Oggi parleremo del reato di clandestinità. Allora, questo lo vogliamo già chiedere agli ascoltatori, 800240024. Insomma, è accertato da tutti gli operatori del settore che il reato di clandestinità porta a ingolfare le procure, a non essere efficace. E quindi tutti quelli che lavorano nel settore dicono toglietelo. Renzi e Alfano hanno detto è vero, non funziona, ma lo teniamo perché sennò la gente si spaventa. No, l'argomento è chiaramente politico e aggiungo io ideologico. Totalmente. Politico, perché sì. Togliere il reato di clandestinità, sento già i leghisti, no, che come? Non funziona. Però non funziona. Cioè, se non funziona, che ingolfa, non funziona e non fa espellere. Ma l'obiezione politica è fatelo funzionare nelle procure, no? Questa è l'obiezione. Come l'hanno scritto loro, non funziona, non è colpa dei giudici. Per una volta, io che non sono certo avaro di critiche nei confronti dei giudici, ecco, però bisogna riconoscere che non è assolutamente colpa dei giudici. Comunque, che ne pensate? C'è chi dice appunto: ma come, per eliminare il problema invece che far funzionare i tribunali o scrivere meglio le norme, che si fa? Si toglie il reato. Ma anche il CSM l'ha detto ieri, Legnini: prima si toglie, meglio è. E di questo parleremo più avanti. E chiederemo naturalmente di intervenire all'800240024. Nel frattempo i magistrati trovano il tempo di occuparsi di vicende gravissime. Ma è grave. Gravissime. No, guarda che questa è una cosa seria, grave. Ma come, cioè, capisci? Ma gravissime. A Treviso. Sì. Tre astici che erano in agonia di fronte. Gli astici. In agonia sul ghiaccio. Che di fronte a quel punto a un passante che si interroga su questa clamorosa violazione dei diritti umani, di ogni convenzione. E finiscono dal pubblico ministero che deve aprire il fascicolo, esaminare la faccenda. Il pubblico ministero, racconta il Corriere, ha convocato il ristoratore sequestrando i tre astici che erano sul ghiaccio. Però il pubblico ministero non ha convalidato il fermo degli astici. Difesa della città. Il fermo degli astici, sì, non del che si sono stati visti allontanare, molto soddisfatti del fatto che la giustizia italiana trovasse il modo. Nel frattempo, cari ascoltatori, pagine e pagine intere su ogni media sulla vicenda di Quarto. Però la notizia vera, a proposito di giustizia, giustizia sostanziale, secondo me è quella che dà il fatto. Intanto però i camorristi a Quarto non li arrestati nessuno. Il Cesarano non li arrestano. No, io dico questa cosa di Quarto, per me va brutalizzata così, ma davvero quelli del Movimento 5 Stelle sono più puri degli altri? Questo è quello di cui si interroga la politica, e ovviamente dall'altra parte dicono no, non è vero, non si è, vedete che siete come gli altri. Io credo di no, nel senso che in una settimana hanno affrontato un problema, ricordiamo, cos'è che diceva ieri Libero? 83 indagati nel Partito Democratico in quest'anno. Sì. Questo, ecco, però si può stringere così, cioè sono migliori degli altri come professano quelli del Movimento 5 Stelle? Sono d'accordo con te, ma il punto è che naturalmente la doviziosa soddisfazione con cui i media e le altre forze politiche, perché vedi, se contiamo il numero di pagine oggi ce n'è più su Quarto che su Istanbul e altre cose, naturalmente è ovvio che questa soddisfazione di tutti nel farne un caso, visto che ci sono racconti delle riunioni dei consiglieri, Fico sapeva tutto, cacceranno anche loro oppure no, ecco, si deve proprio a quello che dici tu, chi alla fine si crea regole e annunci dicendo sono il puro, e alla fine gli altri quando lo beccano. Certo, quando dici la famosa frase se sei puro c'è un più puro che ti è pura, no? Funziona, però la questione politica, rimane. C'è da dire che Renzi dice, non so, lo vogliamo sentire Renzi che dice, ora è dimostrato che quelli del Movimento 5 Stelle sono come gli altri. È chiaro che politicamente sfrutta dal suo punto di vista questa cosa, ieri la Repubblica. L'idea che il 5 Stelle abbia il monopolio della morale per noi non è mai esistita, ma adesso è chiaramente venuta meno anche per gli elettori, i militanti del 5 Stelle. Lo scontro sarà questo, comunque, che naturalmente politico, PD 5 Stelle. A propria volta, se ci pensi, è un Renzi che con l'esercizio del potere non è più, non appare più neanche lontano parente del Renzi Rottamatore. Cioè, quando un politico inizia a dire tutti uguali, vuol dire che ha perso la possibilità di dire io no, capisci? E questo poi è la cosa di fondo, che poi nella vicenda PD si capisce anche quando la Boschi va a intervista 8:30 e inizia a dire beh, se mio padre è indagato, cioè dando per scontato che arriverà, beh, non è che per me cambia niente. Quindi quando si perdono le verginità proclamate, vuol dire che la politica intanto le ha perse, e a quel punto inizia a compiacersi che tutti sono sverginati. Il terzo passo diventa diamoci tutti da fare insieme perché i media non ne parlino, ecco, più o meno vedo questo sviluppo. Certo, mi ha colpito quando dici ed è vero che ci sono più pagine su Quarto che pagine su Istanbul, che ragazzi, ma Turchia ti colpisce, il cuore, no? Mi colpisce sì, il cuore della Turchia, quel paese che vogliamo ovviamente far entrare in Europa, e non è che c'entra, non è che sono i turchi ad aver fatto l'attentato, ma al confine con la Siria, dove Erdogan dice si è infiltrato uno dell'ISIS, hanno colpito turisti lì, turisti tedeschi, in questo caso avrebbe potuto essere anche turisti italiani, cioè nel cuore di Istanbul, voglio dire, e si continua a far finta di niente, che non abbiamo un problema. Spezzo una lancia anche oggi fuori dalla stampa di Maurizio Molinari, che sta molto cambiando e molto migliorando secondo me, segnalando per me il miglior pezzo, il califfo contro il sultano di Domenico Quirico, che ci accomuna la passione e la stima per Domenico Quirico come Alessandro, e anche però di Lorenzo Vidino, un patto scellerato giunto al capolinea, appunto si sta rompendo il patto tra la Turchia di Erdogan Analisi di cose che un po' più profonde, certo, e che ci investono magari con un'onda lunga, non la polemica di 3 giorni su Quarto, ma che ci porteremo avanti purtroppo per anni. Tra l'altro, non so se hai letto sul Messaggero, ecco, a me questo ha un po' incuriosito. Ieri pare ci sia stata grande tensione a Palazzo Chigi sulla Libia, perché sulla Libia Renzi ha convocato Gentiloni, la Pinotti, i servizi segreti. E ecco, il titolo mi ha fatto un po' sorridere: valutiamo raid militari. L'Italia che valuta un raid militare. Perché sono atteso che forse ce n'è stato uno francese, non dichiarato, sì, non notificato, e però i francesi iniziano, vogliamo anche rassicurare i nostri ascoltatori, questo rumore che sentite non è un'azione militare ma è fatto forse che c'è un martello sottofondo pneumatico fuori, non siamo molto ben isolati, e quindi, però non vi preoccupate, se non siamo sentite, a Bataclan, ma secondo me non si sente, ma non lo si so sente, perché qua si sente, qui inizia a vibrare tutto, a dirvi la verità. Però detto questo, c'è stato a quanto pare un raid che viene documentato attraverso l'attività della del rifornitore degli aerei francesi che probabilmente sono intervenuti senza che noi sappiamo niente, e allora pare che la reazione italiana sia: non facciamo Berlusconi, facciamoli prima che li facciano gli altri. Esatto. Non facciamoci superare ancora una volta da Londra, da Parigi. Ma te lo vedi l'Italia che fa un'azione militare? Ma se noi siamo quelli sempre che non si sa, abbiamo annunciato che andiamo a fare la missione in Iraq e poi è non scomparsa. Hai capito, la nostra azione militare sarà che dall'alto noi lanciamo tutti i Rolex che la scorta di Renzi si è tenuta in Arabia Saudita e colpiamo dall'alto comunque sul messaggero con oro massiccio. Con oro massiccio con i Rolex. Comunque anche lì non si è saputo niente, perché da Palazzo Chigi la lista della restituzione dei regali non c'è. Viva, va detto per una volta, Prodi, che fece fare l'asta di tutto. Sai che il mio amico Alberto Forchielli, che conosci anche tu, ha detto che secondo lui li hanno dati al duty free per farti dare il tax. Esatto. E si sono portati dietro un po' di soldi. Però sempre sul messaggero due notizie molto molto positive. La prima positiva: il nostro Tronca sta tenendo duro e quindi per il momento il finto salario di sussidiarietà non viene pagato. Cari dipendenti romani, fatevi un conto su Tronca, non fatevelo invece sul GIP, che ieri ha detto nessun reato perché c'è un dipendente dell'ATAC che si dava malato ma poi regolarmente faceva il cantante per pub e per feste, è stato beccato. Vabbè, ma per il GIP non è un reato. Magari era malato perché aveva un male al ginocchio, mica si canta col ginocchio. Dici tu. Certo, magari aveva, che ne so, la flebite, problemi alle gambe, però l'ugola funziona. E ma quello andava a cantare a pagamento, capisci? Faceva un doppio lavoro nell'orario di lavoro in cui era malato. Arrotondava. E dice GIP che non è reato. Arrotondava. Comunque, ma povero Tronca, come può pretendere che i pubblici dipendenti a Roma svoltino e capiscono se il GIP gli dice che non è reato? Comunque guarda Oscar che arriva un messaggio: ehi ragazzi, soffrono anche gli astici, fate i bravi. No, ma guarda che noi massimo rispetto per gli astici. Ma per carità, sì, però sono pur sempre astici. Mentre lasciamo liberi i camorristi, forse i giudici hanno cose più serie di cui occuparsi. Lo dico con rispetto per gli astici, che comunque sono finiti in padella. Sì, Invece che dalla padella alla brace, dal ghiaccio alla padella. Temo così. C'è Marco da Firenze che ci chiama. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, due cose velocissime. Allora, per quanto riguarda il reato di clandestinità, per accertarlo basterebbe fare delle sezioni ad hoc per poter stabilire se è diritto a una persona di rimanere qui o meno. E perché mi sembra una cosa assurda, cioè sono tutte evoluzioni politiche strane queste. Guardi, ma tra poco il presidente dell'Unione dei Giudici di Pace ci spiegherà tecnicamente se si riesce ad accertare, quindi stia con comunque noi. Comunque, con tutti i soldi, come dice il dottor Giannino, noi spendiamo, diamo in tasse a questo Stato, si potrebbero fare le cose, perché le cose si potrebbero fare, non le fanno, perché per me dietro c'è qualche cosa di scritto e di progetto. E poi volevo complimentarmi con Giannino sull'analisi che ha fatto per il fatto della verginità politica, cioè il PD e Renzi in particolare, e io chiamo da Firenze, devono stare zitti, perché con 83 indagati c'è loro di morale proprio meno e meno. Ecco, non possono parlare. Grazie. Va bene, grazie Marco. Grazie, allora diamo gli Oscar, che da un po' che non li rispolveriamo, perché io oggi ho un Oscar straordinario. And the Oscar goes to... Oggi è riapparsa Francesca Sciauchi, la ricordate, la papessa, che fa un'intervista a Libero e dichiara a un certo punto a Andrea Morigi, che gli chiede: ma senta, ma lei diceva a Monsignor Balda, consigliava a Monsignor Balda nelle intercettazioni la cugina morbida, risposta della Sciauchi: stavo parlando di una cosa da mangiare. E poi il giornalista passa oltre. Ma come? È la spiegazione più incredibile degli ultimi 5 anni. La cugina morbida. Ma indicava sesso orale, questo sta dicendo. No, una cosa è da morbida. Mangiare. Cioè c'è la morbida e non croccante. No. Non voleva dire questo. No. Allora non avevo capito. Una cosa da mangiare, che sa, una brioche, un cioccolatino. Un cioccolatino. Lui li chiama così, un cioccolatino. La cugina morbida. Vabbè. Comunque a me pare comunque che questa vicenda, anch'essa un po' dimenticata, resta il fatto che la Santa Chiesa, però, il processo continua, al libro di Fittipaldi e al libro di Nuzzi continua. E alla Sciauchi, continua. Certo. E a questo proposito ti faccio notare, prima di darmi Oscar, che nella gerarchia delle impaginazioni dei titoli della presentazione ieri del libro di Tornelli sul Papa, è Benigni che batte il Papa. Guarda che Papa Francesco sta perdendo punti, e non solo nei giornali italiani, sono uscite le cifre, non so se l'hai vista, di quanto sta perdendo fedeli ai grandi incontri settimanali. Nel 2015 siamo passati da 1.100.000 a 700.000. Papa Francesco non tira, direbbe la Ciocchi. Eccolo lì. È la chiesa, è forse la chiesa che piace a coloro che non frequentano la chiesa. Può essere, questa è una giusta domanda. Però intanto si vede oggi che per il giornale della notizia è Benigni, non il libro sul Papa. E questo la dice lungo sul giornalismo italiano. Invece il mio Oscar va a Italia Oggi, è concorrente del Sole 24 Ore, che fa un titolo di quelli che piacciono a me, perché dice: prestito forzoso per le imprese. Nei primi 11 mesi del 2015 lo split payment, cioè come l'ha cambiata la norma sull'IVA al governo, ha levato dalle tasche delle imprese italiane 6 miliardi di euro. Ecco, ricordiamole queste cose, cari amici del Sole, ve lo dico appassionatamente. Perché lasciare alla concorrenza notizie così, che purtroppo dicono quanto il governo non sia questa meravigliosa realizzazione solo di buone riforme che sembra un po' a voi? A me sembra anche che i 6 miliardi meno dalle tasche delle imprese valgano un titolo d'apertura. Chiusa parentesi. E allora dai, dopo la pubblicità, il reato di clandestinità, chiamateci 800 24 00 24, vi spaventa, lo conoscete, va tolto, va rimesso, va implementato, diteci la vostra. Allora, le 8:37 minuti, parliamo di questo reato di clandestinità. Non era la Ciocchi al telefono. No, lo spot era Fedigo. Perché è un che di sussultorio ondulatorio. Non era la Ciocchi, fa il bravo! Ma che insomma, oggi abbiamo, siamo partiti a parlare di astici. Ma qui ci abbiamo. Ma anche il martello pneumatico, non era la Ciocchi. C'è un martello pneumatico che stanno lavorando qui, fuori da Radio 24. E quindi ogni tanto se sentite. È la chiesa che fa proseliti. No, allora. Ora, intanto dobbiamo salutare un collega che conduce ogni giorno su Rete 4 dalla vostra parte, è il lunedì quinta colonna, vale a dire Paolo Del Debbio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno caro sindaco. No, no, sì, chi è che ha detto questa roba? Ma sì, è dai, Oscar, caro sindaco. Giannino. Oscar è così. Mettetelo oggi. Mettetelo sotto il martello pneumatico. No, ma è possibile, Paolo, infatti credo che me lo mandino troppo. No, vogliamo però, visto che dobbiamo parlare di reato di clandestinità, vogliamo spazzare i dubbi per la 5000esima volta? Del Debbio, ma appunto, ma basta, cioè, basta, cambiate domanda, cioè, va bene, allora andiamo però sul serio. Paolo Del Debbio, secondo te questa il fatto che di fatto, ecco, il reato di clandestinità messo a mano nel 2009 però non funziona proprio, lo vedremo nei particolari, ma non funziona, secondo te bisogna accettare l'obiezione di chi dice non funziona, anzi ingolfa le procure, liberateci le mani e quindi cassiamolo, oppure secondo te c'è del politico in questo fatto che bisogna cassarlo e lo vogliono levare dal tavolo? No, ma guarda, la detta giusta, diciamo, Alfano stavolta, no? Si può anche togliere, si può anche ragionare di modificarlo, non ora, è l'errore il momento, cioè non è ora il momento di togliere, bisogna aspettare che, ti pare, in questo momento qui se togli il reato di clandestinità, oggettivamente è un fatto che dice, vabbè ragazzi, dai, che non c'è più neanche quello, forza, Italia libera, cioè, non, è il momento, non è il momento sbagliato. Con tutto il casino che c'è, no, voglio dire, con tutti i rischi, le difficoltà, le paure, guarda quel che succede anche in giro, no? Ora anche su questa storia delle donne, poi hai visto anche Salerno, è venuto un momento di una l'hanno guardata, hanno assaltato un centro, mi sono occupato ieri sera, no? Hanno assaltato quel centro rifugiati semplicemente perché le avevano detto da una finestra, certo, cose spiacevoli. Cose spiacevoli, ma che testimoniano che qui, diciamo, una reazione poi significa che c'è una paura diffusa, perché la reazione di Salerno implica questo. È una reazione ben superiore al fatto, no? Voglio dire, non è che l'aveva... più i fatti di Colonia e tutto questo, non mi pare. Quindi che tu dici per non è il momento, è il momento. Ma forse un'ultima domanda, secondo te bisogna assecondare la linea, diciamo, Svezia-Germania, del fatto che se avvengono casi di molestie o casi come quello che è avvenuto a Vignola in Italia, no? del gruppo dei marocchini che ha messo in fila i ragazzini italiani, gli ha detto tu per chi tieni come Dio invece che come squadra, poi hanno anche sparato qualche colpo di pistola, ecco, come giornalisti e come forze dell'ordine bisogna tenerli bassi questi fenomeni per non far scatenare paura e reazioni, o bisogna semplicemente fare il nostro mestiere a quel punto? D'accordo su tenere basso, noi facciamo il nostro mestiere, lo diciamo, dopodiché va fatto bene, nel senso di dire che sono casi e non è tutta Italia così. Bisogna possibilmente, quando si parla, sentire due campane su questo tema, perché c'è scusate, c'è tutta un'Italia di persone che sta facendo un lavoro sugli immigrati lodevolissimo. Ieri sera io su Salerno avevo quelli che in qualche modo legittimavano questo assalto e quelli che viceversa lavoravano nel centro e dicevano: guardate che non è mai successo nulla in 7 anni, quindi voglio dire, ecco. Allora, questo qui aiuta, sono cose semplici, ma certo, aiutano perché ti fanno capire le robe. Certo. Non rinunciare a fare il nostro mestiere, ma farlo con equilibrio. Ecco, no, senti. Farlo bene. Farlo insomma, bene, dai, raccontarlo. Però, farlo non da imbecilli. Che dal punto di vista tecnico qualche problema sul reato di clandestinità ci sia, credo ce lo possa fermare. Ma non c'è dubbio, ma anche nell'applicazione, cioè nel senso che poi alla fine... Ste multe chi l'ha avute, dai, no, ma infatti credo che ce lo possa confermare Maria Flora Di Giovanni. Che poi c'è il problema, scusa, e poi c'è il problema con l'ATM, cioè che poi dopo alla fine, quando uno è indagato, è difficile anche andare a pescarlo. Alla fine sta anche zitto, no? C'è un fenomeno di omertà, è chiaro, no? Perché dice: vabbè, ma a me chi me lo fa fare di denunciare lo scafista che provo dentro anch'io, cioè. No, ma è chiaro. Allora Paolo, salutiamo Maria Flora Di Giovanni, buongiorno, è presidente dell'Unione Nazionale Giudici di Pace, è un giudice di pace anche lei, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo letto qualche giorno fa sulla stampa la procedura, se lei ce la spiega come avviene, ovviamente è una procedura complicata, però nel momento in cui si apre un fascicolo di reato di clandestinità, arriva a un giudice di pace, poniamo il caso a lei, che succede a quel punto? Succede che il fascicolo viene trattato come un processo normale, cioè c'è l'ammissione delle prove che nella maggior parte dei casi sono tutte documentali perché riguardano l'ingresso o la permanenza sul territorio senza avere validi documenti di soggiorno, senza essere entrati nei valichi di frontiera, quindi senza visto d'ingresso. Viene di solito sentito l'agente che ha operato il fermo, sulle modalità del fermo e sui controlli effettuati. Se ci sono riscontri AFIS nel fascicolo, vengono ovviamente debitamente controllati, si arriva alla condanna. Si arriva alla condanna abbastanza presto, diciamo che in due udienze, noi cerchiamo sempre di accelerare due i tempi. Udienze. Sì, cerchiamo sempre di accelerare i tempi. E la condanna prevede, cioè la condanna, il reato di clandestinità che condanna prevede? Allora, è una condanna, è un'ammenda, quindi è una contravvenzione, quindi diciamo che è una pena minore irrogata attualmente per questo tipo di condotta penalmente rilevante, per cui praticamente noi la applichiamo quasi sempre nel minimo, perché di solito queste persone non hanno altri precedenti, cioè 5.000 euro di ammenda. 5.000 euro. Ma nel frattempo la persona, cioè il clandestino, chiamiamolo così, visto che il reato è questo, di clandestinità, dov'è? Questa è una bella domanda, ecco perché io dico che in effetti questo tipo di processo non ha alcuna deterrenza sull'immigrazione clandestina. A noi non arriva mai il clandestino in udienza. Cioè lei non lo vede? Procediamo sempre, prima era contumacia, adesso è assenza. Noi procediamo sempre in assenza. Cioè perché non viene trattenuto, non viene trattenuto in carcere. Non può essere trattenuto. Non può. Non può essere trattenuto. E quindi... Perché non è un, ripeto, non è un tipo di reato che prevede l'arresto in flagranza, quindi fermo, cioè può essere condotto davanti a noi solamente quando c'è un giudizio immediato, ma non avviene mai. Perché non avviene mai? Perché ci vuole tempo per una corretta e certa identificazione. Ah sì, immagino quindi, che nel frattempo insomma scappi, insomma non si faccia più trovare, quindi le ammende non è di alcuna deterrenza, perché diventa addirittura ineseguibile in esecuzione, dopodiché, perché dove lo troviamo? Sì, esatto. Dove lo notifichiamo il provvedimento? Nel frattempo noi quando possiamo, proprio per questo, proprio per rendere almeno un po' più certa questa pena, la commutiamo lì dove è possibile, con l'espulsione dal territorio nazionale per il periodo di 5 anni. Che però, quindi, anche lì, ecco qua, essendo, che essendo, essendo a volte scappato, fuggito, e non, esatto, cioè addirittura alla fine uno fa un reato di clandestinità e può finire il processo con l'espulsione, che voglio dire, è la duplicazione. Ora poi, per riflettere con i nostri ascoltatori, non lo può dire certo Maria Flora Di Giovanni, giudice di pace, però come giornalisti, noi, siccome abbiamo documentato in tutti questi anni, che una delle caratteristiche per cui ci si perde per strada, colui al quale da una parte la politica ha voluto applicare le norme del reato penale di questo tipo, ma ce lo si perde per strada perché la gravità della pena prevista non è tale da farlo fermare. Esatto. È in realtà l'altra faccia della politica italiana sull'immigrazione, perché su questo un po' di ragioni tedeschi ce l'hanno. È vero che noi, sapendo che per Dublino 2 se l'individuo identifichiamo tutti all'inizio ce ne dobbiamo far carico, diciamo, chiudiamo un po' un occhio su diverse decine di migliaia ogni anno, nella speranza che vadano dal Brennero. Se la norma fosse stata scritta bene, per cui il legislatore che da una parte sa e dà istruzioni riservate di comportarsi così e dall'altra scrive reati inapplicabili, esatto, è un legislatore che ha un problema sulla testa. La questione del debito a qualcuno ce l'ha posta così, ma invece di cancellarla, fosse stata scritta bene o venisse corretta, cioè per esempio uno fa un reato di immigrazione clandestina, deve essere, secondo logica, o si toglie il reato oppure deve essere trattenuto, mandato a processo e poi l'ammenda la deve pagare, che poi chissà con quali soldi. Ma sì, se no, fatta così, non è fatto per documenta. Questa è la questione. Esatto. Cioè, allora, la questione è sempre la stessa. La difficoltà che l'Europa, che anche la Merkel col ditino ci aveva detto, ma voi non riuscite a identificare queste persone, cioè, ora ditino l'ha un po' abbassato la Merkel perché mi sembra che si sia spezzato, però il ditino, però ci aveva detto questo e ci aveva detto la verità, cioè che non si riescono a identificare e che quindi i processi di identificazione sono lunghi. Quindi se non riesce a identificarlo, poi il giudice di pace, come ci ha detto ora la dottoressa, lavora sui documenti, magari non lo vede neanche mai. Poi io vorrei anche sapere quanti di questi hanno pagato 5.000 euro. Infatti, ma credo nessuno. Che percentuale? Maria Flora Di Giovanni, ci faccia capire, quanti pagano? Praticamente nessuno. Nessuno. Praticamente molto nessuno. Anche perché, allora, vi ripeto, noi di solito cerchiamo di sostituirlo quando tutto... Con l'espulsione. Permette, con l'espulsione. Sì, perché tanto è inutile, è inutile combinare un'ammenda che uno non paga. Ma certo, a un certo è inseguibile punto... ed è un problema anche per le cancellerie. Ovviamente. Io per questo volevo sottolineare che questo tipo di reato, così come adesso è stato pensato ed non è serve. Applicato, non serve perché è un'inutile duplicazione di un procedimento di espulsione che noi già facciamo in via amministrativa e che funziona già molto bene, ma che se avesse nuove risorse che magari potrebbero essere tratte dalla trattazione di questo inutile processo, potrebbe funzionare ancora meglio. Potrebbe funzionare. Ecco perché francamente io capisco quel che ha detto il sindaco, perché è un momento forse tra i meno opportuni per dare l'impressione, ecco, a noi cittadini, e mi ci metto anch'io, che ci sia un problema di sicurezza. Sì. Però io ribadisco se una cosa non funziona, non funziona. Non serve a nulla. No, ma è chiaro, quindi, del debito è da qui che nasce l'idea di dire togliamolo, però politicamente capisco che è una questione delicata. No, ma è ovvio delicata. Che vanno messe, è ovvio che l'unico punto è che se uno sta in un posto dove non deve stare, da quel posto deve andare via. Questo è il punto. E quindi chi è clandestino va rimandato a casa sua, d'accordo? Allora, questo è il punto. Uno è questo. L'altro è che è noto che ci possono essere dei correttivi al famoso Dublino. Solo su di questi correttivi, ad oggi, se ne parla da 16 mesi, d'accordo? Sì, ma non ci saranno. 16 mesi. Non ci saranno. E quindi se non fai quello, tutto il resto è vano. Io mi occupo di sta roba qua da 2 anni e mezzo. Cioè, non è possibile proprio andare alla radice. La radice è che va tolto il dente, e il dente è che se uno c'è va mandato via. Sì. E quindi se non togli quel dente lì, e in più non togli il dente che chi lo identifica deve occuparsi di tutto, capito? Parte è chiaro che io proprio per questo, parte, proprio per questo Paolo, però io ti dirò che insomma, siccome la penso come te, la sostanza si aggredisce concentrando le risorse su espulsioni amministrative senza passare per il filtro giudiziario, rapide ed eseguite, punto. E per il resto io sono anche per politici che non abbiano il complesso, come devo dirti, la colonna infame. Da liberale penso che se una legge non funziona, io mi prendo la responsabilità di dire agli italiani: noi facciamo le espulsioni amministrative che funzionano, ma non teniamo un reato penale che mi obbliga solo a chiudere gli occhi di fronte. Perché poi capirebbero, lo sai meglio di me. Ma poi fa pagare soldi allo Stato, perché tutti questi procedimenti. A noi ci dovete levare dalle scatole gente che sta qui in modo abusivo. Questo è quello che ti chiede la gente. Io poi ciò che piace, per le sere, eccetera. Che tu lo faccia in un modo, che tu lo faccia in un altro, ma molti non sanno neanche cos'è il reato clandestino. Anche perché leggevo, non gliene frega assolutamente niente. Cioè, ovviamente, in tutto questo l'avvocato d'ufficio, no? Maria Flora Di Giovanni, quanto costa un avvocato d'ufficio che il clandestino, che neanche si presenta, però ha diritto ad avere? Guardi, l'avvocato d'ufficio deve essere compensato come per qualsiasi altro reato, con la decurtazione della metà di quello che gli spetta, quindi diciamo che noi per un processo di questo genere liquidiamo, ecco, dipende anche dal numero delle udienze, ma se sono quelle ristrette sui 500 euro. A procedimento, fate il conto di quanti procedimenti ci sono, insomma, basta moltiplicare. Per le convalide, per cui veramente è una spesa inutile. Una spesa inutile. Solo, e poi vi voglio dire anche un'altra roba. È vero che c'è Dublino? Sì. È vero che si poteva fare un accordo per il quale Dublino veniva dribblato immediatamente? Sì, sì, qual era? Alcuni non sbarcavano in Italia. No, è quello che dici, è assolutamente vero. La marina inglese ha portato quell'ammasso, dico ammasso per come erano messi nella... Sì, non per mancanza di rispetto. D'accordo, li ha portati alla Spezia. Mm-hmm. Cioè, si possono portare a Nizza. Lo so. Lì la geografia ci gioca un po' contro. No, lì le autorità italiane non hanno avuto il fegato di assumere delle decisioni che segnalassero in concreto alla comunità internazionale: we are fed up, basta, abbiamo marcato la linea. Ce la facciamo a sentire anche che ci dice Stefano da Brescia. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno. Il mio punto di vista è questo. Vorrei innanzitutto dire che ci troviamo in una situazione dove, con quello che sta succedendo nel mondo, con quello che è successo anche a Colonia, c'è una sensazione di paura, che è quello che il cittadino non vuole sentire nella sua vita, che fa tutti i giorni. Quindi? Vorrei pensare che la politica possa dare una soluzione sotto due aspetti. Da una parte, di dare la certezza al cittadino che chi viene preso viene in qualche modo punito. Dall'altra, di non creare però nel clandestino il principio di ogni male. Capito. Però questo significa solo espulsioni efficaci, punto, insomma, senza girarci intorno. Lei Federico invece, grazie Stefano, Federico da Milano, in pochi secondi per cortesia. Sì, pochi secondi. Tutti gli altri in Europa questo reato ce l'hanno, evidentemente hanno metodi meno farraginosi di applicarli. Ma, Federico, noi italiani quando abbiamo una soluzione creiamo i problemi. Ma, Federico, guardi che in l'Europa le espulsioni le fa col braccio amministrativo, praticamente tutta Europa, quindi non le fa con le corti, non ce l'hanno. Alcuni ce l'hanno, certo. Una cosa c'è, che laddove c'è viene fatto per farlo funzionare bene, non per farlo funzionare in maniera indegna, come ci ha raccontato Maria Flora Di Giovanni. Non c'è dubbio. Però ringraziamo sia lei, ringraziamo Paolo Del Debbio questa sera, ovviamente, su Rete 4. Il giudice di pace ha chiamato sindaco, però riflettici. Alla prossima puntata questa, Oscar, noi ci dobbiamo fermare qui con Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi e Peter Biscardi. Mardo, che anche Gerriolo, va bene. Cioè, tu vorresti, come gli hanno fregato l'altra moglie, tu vorresti fregargli già questa moglie. Ma magari, se stesso, si sta su un milione. Ne parliamo, Mardo, temimi, perché io voglio Gerriolo. Con tua moglie ne parliamo, è ovvio. A domani.